Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia di Ilaria Della Cueva, Nel silenzio. Nel silenzio della notte più fredda i miei pensieri volano lontano, dove solo pochi possono immaginare, e poi si disperdono nell'infinito, toccando il cuore di ogni persona. Un pensiero a chi è vicino e a chi è lontano, un pensiero a chi mi conosce e chi no, un pensiero a chi mi ama e a chi mi odia, ma soprattutto un pensiero a chi mi ascolta. Nel silenzio della notte più buia, quando le speranze cadono addormentate nel pozzo della nostra anima, quando perdiamo il cammino e come polvere ci disperdiamo nel vento, voglio solo far sapere dal profondo che nulla è semplice nel mondo, ma che dopo essere caduti bisogna rialzarsi ridendo. Tutti i diritti riservati all'autore.